in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, come potete immaginare, oggi hanno le prime pagine molto simili perché sono, ci sono fotonotizie, approfondimenti e cronaca sul Family Day che si è tenuto ieri a Roma. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, perché ieri c'era anche a Torino il 22esimo congresso dell'Assiom, che è l'associazione degli operatori finanziari, cosiddetto Forex, ed è stato forse quest'anno ancora più importante che negli scorsi anni per fare il punto, naturalmente soprattutto sulla situazione delle banche. È intervenuto il governatore della nostra banca centrale, della Banca d'Italia, Visco, e da qui il titolo del Sole 24 Ore: banche solide, ma il bail-in è da rivedere. Quindi un ribadire quest'idea che il sistema bancario italiano, nonostante le defaillance, le quattro banche, piccole banche, purtroppo, nonostante naturalmente chi, i risparmiatori che hanno perso i loro soldi lo vedano come, come una tragedia, però sono comunque piccole banche all'interno del sistema, quindi le quattro banche salvate e poi le nuove regole che sappiamo sono entrate in vigore, il cosiddetto bail-in, cioè il fatto che una banca adesso deve essere salvata dal sistema bancario privatamente, non può più esserci un bail-out, cioè un salvataggio di Stato. Visco già nei giorni scorsi aveva detto che queste regole europee non erano completamente condivise dalla Banca d'Italia, lo ha ribadito ieri a Torino. Moltissimi gli approfondimenti che trovate poi alle pagine 2, 3, 4 e 5 del Sole 24 Ore, appunto sul Forex. Dalla prima pagina vi segnalo anche tornando appunto sulla questione delle quattro banche salvate, che il dossier di Banca Italia su queste, dal dossier di Banca Italia su queste quattro banche, emerge anche che le voci su una possibile su un possibile sostegno da parte di Banca Italia su una fusione tra Banca Etruria e Popolare di Vicenza in realtà non sono fondate. Un commento di Moira Longo: nuova vigilanza e tutela del risparmio. Sapete che il Sole 24 Ore ha lanciato, appunto quando è stata fatta questa manovra sulle quattro banche, un'idea di un manifesto per il risparmio con la semplificazione anche di quei famosi fogli MiFID che ci fanno firmare quando sottoscriviamo degli strumenti di risparmio in una banca, e ricorderete forse appunto l'idea di fare qualcosa di simile al foglio delle indicazioni, al foglio illustrativo dei farmaci, cercando di non farlo diventare, come nel caso dei farmaci, di non farlo diventare poi troppo complicato. Sapete che il soprannome di quel foglietto è Bugiardino, insomma non proprio lusinghiero, però l'idea del manifesto del Sole 24 Ore sul risparmio è quello appunto di dare uno strumento in più ai risparmiatori, che spesso non sono tecnici, non sono operatori finanziari, per fare delle scelte di risparmio consapevoli. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la lettera al risparmiatore, come ogni domenica, di Vittorio Carlini, la trovate poi a pagina 16, sì, all'interno. Come sempre si concentra su un titolo quotato per dare dei consigli ai risparmiatori, chi magari l'avesse già in portafoglio, chi stesse pensando di comprarlo. Questa settimana è il gruppo Tod's, il gruppo che controlla in realtà quattro marchi: Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, che proprio settimana scorsa ha pubblicato i dati sul 2015 ed è per la prima volta i ricavi hanno superato il miliardo di euro, quindi è diventata una delle poche billion euros companies della moda italiana. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore l'ultima cosa che vi segnalo è un commento dell'arcivescovo di Chieti Vasco, perché naturalmente anche il Sole 24 Ore si è occupato del Family Day. Il commento, che poi trovate a pagina 6, è: scommettere sulla famiglia. Corriere della Sera ha una fotonotizia dedicata al Family Day, in primo piano una bandiera dove si distinguono chiaramente una donna e un uomo che sono papà e mamma, e un bambino e una bambina, figlio e figlia. Il titolo principale, i volti alla piazza del Family Day, siamo 2 milioni. Poi vi leggerò parte di questo, di questa lunga intervista che Aldo Cazzullo ha fatto al cardinale Ruini. Hanno guardato insieme davanti alla televisione la cronaca del Family Day. Il titolo dato all'intervista è: un'intesa è possibile. Ma il titolo principale comunque del Corriere della Sera è sull'intervento di ieri del governatore Visco al Forex di Torino, quindi come il Sole 24 Ore, che ha parlato anche delle banche e ha spiegato, come appunto abbiamo detto, che il sistema è solido ma che ci sono effettivamente delle regole da rivedere. La Repubblica fa la stessa scelta del Corriere della Sera, cioè una foto scattata al Circo Massimo per il Family Day che sfida le unioni civili. con naturalmente moltissimi, moltissimi commenti, molta cronaca, ma il titolo principale anche in questo caso sulle banche, caso banche, poi una ipotesi che così approfondita ho trovato solo sulla Repubblica, un retroscena compilato da Claudio Tito, ci sarebbe per salvare il grande malato delle banche italiane che è il Monte dei Paschi di Siena, una ipotesi Poste, il dossier sul tavolo del governo, cioè l'entrata appunto delle Poste nel capitale di Monte dei Paschi di Siena. L'Avvenire ovviamente titola sul Family Day con una grande foto e il titolo sia la famiglia sia il buon diritto, e riassume così quello che è successo ieri. Dal raduno al Circo Massimo, forte appello a rivedere il decreto legge sulle unioni civili, no all'utero in affitto. Lo ricordiamo ancora una volta, sì è vero, ieri è venuto ancora una volta questo appello al no all'utero in affitto, cioè le gravidanze surrogate, con anche l'intervento sul palco di un'attivista americana di contraria appunto a questa pratica che negli Stati Uniti è consentita. Ricordiamo però che in questo decreto sulle unioni civili non è assolutamente previsto, non si parla assolutamente di utero in affitto, che in Italia per la legge 40 è proibito. Pressioni per lo stralcio della stepchild, sapete l'articolo appunto sulla stepchild, cosiddetta stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del compagno sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali. E poi questo ulteriore elemento che mette a venire, Renzi ci pensa, vedremo che in realtà altri giornali riportano che la posizione del segretario del Partito Democratico, nonché Premier, non sarebbe in realtà di un ripensamento, però insomma vedremo. Il Messaggero, Family Day, la sfida a Renzi, la fotonotizia però è dedicata al campionato, alla partita che c'è stata ieri, l'anticipo, quella che viene definita la magia di El Shaarawy, e questo giocatore, insomma, grazie anche a questo giocatore la Roma ha battuto il Frosinone 3-1, è un buon segnale per il nuovo corso della Roma con il nuovo allenatore Spalletti, quindi questa è la fotonotizia. Però molto spazio anche all'intervento di Vincenzo Visco ieri a Torino, scusatemi, Ignazio Visco. Vincenzo Visco era un ministro delle finanze di un po' di anni fa, Ignazio Visco, governatore della banca, di Banca Italia, della nostra banca centrale. L'Europa deve cambiare la legge sui salvataggi bancari, appunto quello che vedevamo anche sul Sole 24 Ore, il cosiddetto bail-in piuttosto che bail-out. La Stampa titola proprio sul Family Day, il Family Day sfida Renzi, niente leggi sulle unioni, e poi questo virgolettato di Gandolfini, che è l'organizzatore di questo Family Day, che ha lanciato proprio quella che la Stampa definisce una sfida, vedremo chi ci aiuta e chi no. Il riferimento è, come avrete sentito anche nei telegiornali, alla reazione che potrebbero avere appunto tutte queste persone che erano in piazza e altre ancora alle prossime consultazioni elettorali, a seconda di come si muoveranno i partiti su questa questione, una sorta di minaccia vera e propria, minaccia di voto contrario o favorevole. Ma la fotonotizia è dedicata in realtà alle elezioni americane. Sono già molti mesi che parliamo delle primarie americane, che dovranno scegliere da una parte il candidato repubblicano e dall'altro il candidato democratico, poi ci potrebbe essere un indipendente che è Bloomberg, ma ieri, nei giorni scorsi si è riaperta una questione che riguarda Hillary Clinton, che sembrerebbe lanciata verso la nomination del Partito Democratico appunto per candidarla alle elezioni che ci saranno poi in novembre. Era già stata accusata in passato di aver usato un server pubblico per gestire delle email private. Lo scandalo sta tornando fuori, lo chiamiamo scandalo perché in America è uno scandalo, qui da noi naturalmente sarebbe uno scandalino, però in realtà, come spiega la Stampa, le email che rischiano di sconfiggere Hillary. Ufficialmente parte proprio domani questa corsa alla Casa Bianca con il cosiddetto caucus dell'Iowa, cioè dove si sceglierà appunto in Iowa il candidato repubblicano. Il caucus dell'Iowa dirà chi è il candidato alle primarie del Partito Repubblicano, quindi come mancano appunto ancora parecchi mesi, manca ancora tanto tempo, è un processo molto lungo quello di selezione dei candidati per le presidenziali americane. Il Fatto Quotidiano titola sostanzialmente sul Family Day, unioni civili, due punti, il governo è pro ma anche contro, e ancora una volta si mettono in luce quelle che effettivamente esistono, che sono le contraddizioni all'interno del governo. Pensate per esempio alla posizione del ministro dell'Interno Alfano, che ha detto a più riprese di essere contrario ai matrimoni gay, che comunque non sono previsti così, come appunto letteralmente come matrimoni dalla legge, ma solo come unioni civili, è contrario alla stepchild adoption, ma ieri non è andato in piazza, virgolettato, per non imbarazzare il governo. Divertente questa sentenza che riporta solo il fatto, ma perché riguarda il fatto in prima persona, e il titolo è: Salvini non ha mai lavorato. Salvini aveva querelato il fatto perché un giornalista del Fatto, Davide Vecchi, aveva detto appunto: Salvini non ha mai lavorato, se non se aveva ha sempre fatto politica. Sapete che anche Marco Travaglio dice sempre: Salvini è in politica da prima di Berlusconi, cioè da più di 20 anni, e ora sì, appunto, quella querela è stata respinta, il GIP ha archiviato l'accusa di Salvini, che aveva querelato il fatto per averlo accusato appunto di non aver mai lavorato. Il giornale: i cattolici divorziano da Renzi, 2 milioni al Circo Massimo, sui numeri c'è la solita guerra. Vedremo sulla Repubblica, che si cerca un po' di fare chiarezza su questi numeri. Comunque ricorderete, una settimana fa più o meno 1 milione in tutta Italia, erano però 38 le piazze delle manifestazioni arcobaleno pro unioni civili, pro decreto legge Cirinnà. Qui ieri quelli che erano in piazza si sono autocontati, dicendo che appunto erano 2 milioni soltanto a Roma. Una piazza pacifica che preoccupa il governo, così scrive il giornale. Il Libero invece ha un titolo su una sentenza della Cassazione, che appunto che è stata sviscerata dai giornalisti di Libero, e il commento del direttore del giornale Maurizio Belpietro: se i clandestini fanno figli, per i giudici sono italiani. Il riferimento a questa sentenza della Cassazione che ha, così scrive Libero, regalato il permesso di soggiorno a una coppia di cinesi espulsi col pretesto che hanno avuto un bambino in Italia. La legge non lo prevede, ma fa lo stesso, tanto vale abolire il Parlamento. E poi un'inchiesta su Sala, che il 7 e l'8 febbraio parteciperà alle primarie qui a Milano per decidere chi è il candidato del centro-sinistra a sindaco di Milano. Il titolo dell'inchiesta di Libero: gli scivoloni di Sala, incarico Expo al capo della moglie, tutti i conflitti di interesse del candidato sindaco di Milano, che, lo ricordiamo, in passato è stato anche il direttore generale della giunta Moratti, cioè di una giunta di centrodestra. Forse anche per questo adesso è molto inviso ai giornali, diciamo, di centrodestra, perché è un po' come se avesse fatto una grande capriola. L'Unità titola: viva le famiglie, punto tutte, quindi grande fotonotizia della manifestazione al Circo Massimo, e il titolo: dopo Svegliati Italia, un successo anche il Family Day, ma le unioni civili adesso si votano. Ci lasciamo un attimo per una pausa e ci ritroviamo subito dopo per le pagine interne, sulle pagine interne dei quotidiani di oggi. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Siamo ormai arrivati all'ultimo dei 3 giorni della merla, periodo statisticamente freddo per l'Italia, e invece anche oggi temperature ben oltre la norma. Pensate, nel pomeriggio toccheremo i 13-14 gradi al nord, 15-16 nelle regioni centrali e fino a 17-18 gradi al sud. Però anche oggi cielo a tratti grigi in alcune zone, soprattutto in pianura padana e sulle regioni tirreniche. Qualche goccia di pioggia è prevista sull'Alta Toscana e tra la Campania e l'Alta Calabria, ma per la verità col passare delle ore torneranno anche delle belle schiarite. Vi segnalo invece sull'arco alpino un aumento della nuvolosità, qualche fiocco di neve in montagna, ma solo a quote alte, perché anche da quelle parti fa caldo. Con questo è tutto, per aggiornamenti vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Delle prime pagine dei quotidiani di oggi ci mancava solo il Manifesto, che titola Mamma Mia. La fotonotizia è quella, un'immagine della manifestazione di ieri, il Family Day al Circo Massimo di Roma, con la colonna sonora di Beniamino Gigli e slogan contro le coppie omosessuali. Al Family Day del Circo Massimo 300.000 persone, vedete appunto il balletto dei numeri, 2 milioni secondo alcuni, 300.000 secondo altri, chiedono il ritiro del DDL Cirinnà e minacciano i politici. Ci ricorderemo di chi non fa la sua richiesta, di chi non fa sua la richiesta di questa piazza. Un tuffo nel passato più buio tra preghiere e video pulp. Questo quindi molto critico il manifesto. con anche un articolo all'interno dove si cerca di capire chi sono tutte queste, se appartengono a qualche gruppo, tutte le persone che hanno partecipato al Family Day, dai neocatecumali a Milizia Christi sfila la Chiesa a cui non piace Bergoglio. Questo è il riassunto che fa il manifesto. Un'ultima copertina, quella della Gazzetta dello Sport, dedicata naturalmente al derby Milan-Inter che ci sarà questa sera a Milano, ultimo treno a San Siro e la grande sfida naturalmente tra i due tecnici, Mihajlovic, che tra l'altro nell'Inter ha giocato, e Mancini. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Sole 24 Ore, perché ieri abbiamo parlato molto del Forex di Torino, questo convegno, 22esimo convegno dell'Associazione degli Operatori Finanziari, ma c'era anche il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che arriva come ogni anno alla fine in realtà del primo mese del nuovo anno. Giovanni Negri ci racconta soprattutto l'intervento, si focalizza soprattutto sull'intervento del Ministro della Giustizia Orlando con questa citazione: politica timida con la magistratura. Sapete che la riforma della giustizia è una delle tante riforme promesse da Renzi sul tavolo del governo, in effetti, e quindi in particolare del ministro Orlando. Per ora non si è ancora concretizzata, ci sono molti nodi da sciogliere e infatti il ministro ha detto non c'è più una questione di giustizia, ma puntuale è arrivata subito la replica dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è il sindacato più importante dei magistrati. Equilibrio ancora da trovare, molti focus, perché poi all'inaugurazione dell'anno giudiziario si è parlato anche dei problemi delle singole sedi, e quindi Milano, dove nel penale cresce l'arretrato, aumenta il contenzioso sui derivati e sui conti correnti; Roma, dove c'è un record di cause civili pendenti, corruzione oltre i livelli di guardia sulla prescrizione, allarme impunità; Napoli, recupero crediti ai clan, un'amnistia strisciante per via dei ritardi nei processi; e infine Palermo, l'offensiva di Cosa Nostra, le condotte di pochi non travolgano la professionalità di molti. L'analisi è di Donatella Stasio, che storicamente si occupa di giustizia per il nostro giornale. Sconfiggere il cinismo per uscire dalla crisi. Vi segnalo dal dorso di Imprese e Territori, come sempre quando c'è insomma concreti segnali di ripresa fa molto piacere segnalarli. In questo caso si tratta del comparto dell'enologia, l'approfondimento di Emanuele Scarci. Nel 2015 un record per le esportazioni di vino italiano, le cantine italiane dopo anni hanno ritrovato slancio anche sul mercato interno. Il vino ritrova i consumi italiani. Per i produttori il 2016 sarà ancora positivo, naturalmente pesano le incognite Russia e prezzi. Incognite Russia in due sensi: da una parte ci sono, come sappiamo, ancora le sanzioni che penalizzano l'export di tantissimi paesi europei e dell'America verso la Russia, e poi c'è la crisi interna della Russia dei consumi legata a una crisi dell'economia, ma anche a uno scenario macroeconomico più generale, e sappiamo soprattutto il crollo del prezzo del petrolio. La Russia è un paese ricchissimo di riserve energetiche, quindi quando crollano i prezzi delle materie prime la sua economia ovviamente ne risente molto. Vi dicevo dalle pagine interne del Corriere della Sera questo articolo di Aldo Cazzullo, che ha assistito davanti alla televisione con il Cardinal Ruini, che ha 85 anni ed è stato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, fino al 2007, ha assistito appunto al Family Day. Il titolo di questa intervista che ne è scaturita è: noi in minoranza non è affatto scontato, trovare un accordo è ancora possibile. Vi segnalo una domanda, perché la risposta suona veramente familiare, la sentiamo spesso, una risposta di questo genere. La domanda di Cazzullo: agli omosessuali cosa si sente di dire? Che non soltanto non sono ostile alle persone omosessuali, ma ho avuto fin da giovane autentiche amicizie con qualcuno di loro. È la difesa tipica di chi viene accusato di omofobia. No, ma io ho degli amici omosessuali. Ma che cosa vuol dire? Mi viene da rispondere. Ma comunque, chiaramente tutte le persone hanno integralmente i diritti che competono alla persona come tale, a partire dal rispetto che è loro dovuto. L'ultima domanda: cosa le resta di questa giornata? Una conferma: non è detto che siamo sconfitti, le partite sono sempre aperte. Ha ragione anche lei, però c'è un'altra modernità, ma ci siamo anche noi, e tanta gente in chiesa va poco, ma su queste cose la pensa come noi. Ma dal Corriere della Sera Vi segnalo a proposito di Vaticano un articolo interessantissimo di Paolo Salom sull'avvicinamento che una delle tante opere diplomatiche a cui si è dedicato Papa Francesco, l'avvicinamento tra il Vaticano e la Cina. Pronta la nomina dei tre vescovi, passo decisivo per il grande disgelo, e c'è un po' un riassunto delle tappe che hanno segnato i rapporti tra il Vaticano, tra la Chiesa Cattolica e la Cina, quindi il 1582, quando padre Matteo Ricci, gesuita, matematico e cartografo, fu il primo missionario in Cina. Poi il 1951, quando ci fu una prima eclatante ondata di arresti e esecuzioni in Cina sotto il regime di Mao, e naturalmente tra le centinaia di migliaia di vittime ci furono anche molti cristiani. La Cina di Mao fece la guerra a tutte le religioni, quindi anche al cristianesimo. E poi però il 2007, l'anno in cui Benedetto XVI si rivolge con una lettera a tutta la Chiesa che è in Cina, auspicando un accordo con il governo, e forse appunto ci siamo con questa possibile nomina che ci racconta Paolo Salom di tre vescovi in Cina. E poi un articolo l'ho trovato bellissimo, si chiama Bradipo Tipo, lo trovate alla pagina 21 del Corriere della Sera, di Carlo Bordoni. L'animale simbolo della lentezza continua ad attrarci pure nell'era della velocità, perché la mente richiede tempi lunghi. C'è un po' un caso di cronaca recente, perché un bradipo che non voleva attraversare una strada, c'è anche la foto, uno degli con questo bradipo su una strada americana, salvato da un agente della polizia stradale, che poi ha pubblicato le foto di questo bradipo sui social. Questo è solo appunto uno spunto per parlare di questo animale famoso per muoversi con una lentezza estrema, imperturbabile, che da una parte è appunto il simbolo di quello che forse noi crediamo di non essere più. Noi crediamo di essere velocissimi, di comunicare in modo molto veloce, ma poi forse la lentezza va, come sostiene questo articolo, va rivalutata. Passiamo alle pagine interne della Repubblica con... Vi dicevo, la famosa guerra delle cifre. Ecco, allora pagina 5, trovate un po' di fact checking su questo, pagina 4, scusate, la Repubblica, guerra di cifre. Allora, la capienza ufficiale del circo massimo è di 336.000 persone, quindi 2 milioni di persone al circo massimo non è possibile che ci fossero al suo interno. È possibile però che ci fossero molte persone che aspettavano fuori, quindi un po' cercare di capire, forse non erano 2 milioni, non erano neanche 350.000 o 300.000 addirittura, come azzardava il manifesto, però forse appunto la verità sta un po' nel mezzo, ed è forse la cifra reale più vicina a quel milione, che è poi il numero di persone che hanno partecipato invece settimana scorsa alle manifestazioni, in realtà sparse per tutta Italia, di sostegno al decreto sulle unioni civili. Vi segnalo dalla Repubblica anche un interessante articolo di Stefan Erlanger, che in realtà è tradotto dal New York Times, con cui Repubblica ha un articolo di syndication, cioè può pubblicare alcuni articoli che appaiono sul New York Times, e ci parla di come in Israele ci sia in atto una campagna dell'estrema destra israeliana contro gli intellettuali, in particolare gli scrittori come David Grossman e Amos Oz, entrambi tra l'altro in odore di premio Nobel, che da sempre sono critici verso alcune politiche del governo israeliano, e da sempre sostengono che bisogna arrivare alla nascita dei due stati, cioè lo stato palestinese accanto allo stato israeliano, e naturalmente sono anche contrari alle politiche sulle colonie che continuano ad espandersi di fatto, soprattutto quando i governi come quello attuale sono governi di centrodestra. Manifesti contro le icone della cultura, finanziamenti negati a chi non esprime quella che viene definita lealtà allo Stato. A proposito invece di immigrazione, si parla tanto soprattutto di immigrazione clandestina, con tra l'altro fatti di cronaca terribili come quelli di ieri con l'ennesimo naufragio, e Monica Perosino ci racconta una storia, ha intervistato due immigrati clandestini. Così noi profughi beffiamo le regole sull'immigrazione. Saleh e Ahmad sono stati identificati in Ungheria e Italia, per vivere in Svezia si sono nascosti per 18 mesi, dopo quel periodo le impronte vengono cancellate, quindi questo stratagemma appunto per sfuggire ai controlli. E c'è anche, naturalmente, la stampa non si esime da poi dal citare anche gli ultimi fatti di cronaca, cioè che ieri ci sono state alcune numerose aggressioni a migranti a Stoccolma, quindi la Svezia, che sappiamo questa settimana ha annunciato che boccerà metà delle richieste di asilo politico ricevute nel 2015, e si tratta di 80.000 richieste di asilo. Sulla sulla questione del sulla serie che continua sempre sulla stampa del viaggio tra le eccellenze artigianali in Italia che sta facendo il nostro Federico Taddia, nostro nel senso che naturalmente gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene. Siamo arrivati alla 16ª puntata e oggi è una storia che mi pare particolarmente bella ed è quella di una tipografia ad Alpignano. È la tipografia, pensate, più antica del mondo, usata anche da quella casa editrice fantastica che è la casa editrice Tallone. Il titolo del reportage di Federico è "Dove nascono i libri stampati come ai tempi di Gutenberg". Gutenberg naturalmente l'inventore della stampa. Dalle pagine interne del Messaggero un tema importante che è quello della sanità che ci tocca tutti, e ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi dei risparmi previsti dal piano del Ministro della Salute Lorenzin, ora si ricomincia a parlarne. Sanità, tre mosse per risparmiare 5 miliardi. Bilanci trasparenti, pagamento delle prestazioni effettuate, ospedali in rosso cronico ai privati, così lo Stato ci guadagna. Pellissero, che è presidente dell'associazione dell'AIOP, che è l'associazione che raggruppa le strutture non pubbliche, lancia la proposta per rendere più efficiente il sistema sanitario e garantire servizi di qualità. Certo, ce lo auguriamo tutti che veramente ci possa essere una fruttuosa collaborazione tra privato e pubblico per rendere la sanità più efficiente. Dicevamo dei migranti, l'Avvenire è il giornale che dedica più spazio all'ennesima tragedia di ieri. Migranti, 39 morti dell'Egeo, in mare una strage quotidiana. L'UNICEF lancia a sua volta un allarme, bambini inghiottiti dalle acque, basta silenzi. E poi ancora anche un approfondimento dalla Bulgaria, abbiamo parlato degli episodi di razzismo ieri a Stoccolma. In Bulgaria si va a caccia di profughi, ci racconta l'Avvenire con l'inviato Nello Sclavo, associazioni venatorie e polizia per bloccare gli stranieri, e cercando di bloccarli in questo modo c'è già stato un morto. E poi un altro approfondimento dalla Siria, questa volta altro argomento che entra e esce dalle pagine dei giornali così, un po' inspiegabilmente. Ci sono giorni in cui si parla solo di quello, giorni in cui viene ignorato. Non l'Avvenire, che ci racconta, si muore ancora di fame a Madaya, altre 16 vittime. E Medici Senza Frontiere ha lanciato questo allarme nella città assediata, oltre 300 denutriti. E appunto la guerra che provoca l'emorragia di profughi, ma invece chi resta spesso invece in campi profughi poi muore di fame o di malattie. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle pagine interne dell'Avvenire che ha un'altra notizia che non ho trovato sui quotidiani ed è un allarme siccità. Ne abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi, ci sono stati degli articoli, purtroppo in Italia quest'anno ha piovuto poco, qui a Milano ieri ha piovigginato, ma non basta certo né per scongiurare il pericolo inquinamento né per rimpinguare le falde acquifere che sono appunto a secco. E il titolo del reportage dell'Avvenire è "Allarme siccità, nei laghi l'acqua scende del 60%, preoccupa la capacità dei grandi invasi" e si va verso una cabina di regia. Quando sentiamo questo termine, insomma, c'è sempre un po' da preoccuparsi perché è così difficile mettere d'accordo o portare allo stesso tavolo le istituzioni in Italia, le istituzioni locali e nazionali. In ogni caso l'assessore regionale della Lombardia Beccalossi chiede al ministro dell'Ambiente Galletti di prendere parte a un tavolo tecnico che ci sarà il 24 febbraio. È un'emergenza in Lombardia e non solo. Poi una bella reportage del Fatto Quotidiano, lo trovate alle pagine 10 e 11 del Fatto Quotidiano, su quello che sta succedendo a Napoli. Avrete sentito che la Apple ha annunciato l'apertura di un grande centro di ricerca e quindi si cerca di guardare appunto anche il lato positivo di una città e di una regione che sicuramente soffre soprattutto dal punto di vista occupazionale. Da Bagnoli alla Apple, Napoli ci riprova, ma quanta fatica. Per il Corriere del Mezzogiorno, Gigino Sindaco, così lo chiama il Fatto, ha trasformato la capitale del Sud nella fortezza Bastiani della demagogia. Vabbè, il sindaco De Magistris, Luigi De Magistris, è molto criticato da sempre dal Fatto Quotidiano, non solo dal Fatto Quotidiano. Vedremo appunto se poi alle prossime elezioni verrà riconfermato e vedremo se finalmente Napoli, col tempo, perché ci vuole tempo per sbloccare situazioni drammatiche come quelle di Napoli e della Campania, potrà uscire da questo tunnel. E sempre dal Fatto Quotidiano, un bel approfondimento sulle elezioni americane di Gian Piero Gramaglia, che per tanti anni è stato all'ANSA, corrispondente dagli Stati Uniti, un grande esperto di cose americane. Il suo è un ritratto di Michael Bloomberg, che sapete è ex sindaco di New York, che potrebbe diventare il candidato, il terzo incomodo, perché vuole candidarsi come indipendente, quindi non come repubblicano né tantomeno come democratico, alla Casa Bianca. Pazza idea, un repubblicano illuminato alla Casa Bianca. Ma veniamo ai supplementi culturali. Come ogni domenica, iniziamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola I consigli. Non si dà nulla con tanta liberalità quanto i consigli. Tutti abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali altrui. Realistico e graffiante come sempre, La Rochefoucauld è ancora oggi attuale nonostante le sue massime morali siano del 1664. Ne abbiamo scelte due tra le circa 500 dell'intera raccolta, coordinate tra loro dal filo tematico del rapporto col prossimo. Il consiglio, nella tradizione ebraico-cristiana, è un dono dello Spirito Santo, ma spesso si riduce a un atto poco costoso, ben diverso da una condivisione genuina e operosa. In questa linea si colloca l'altra riflessione, la solidarietà pelosa, cioè ipocrita, può essere dispensata a buon mercato agli altri, ma in caso di un male che ci colpisce personalmente, riusciamo a capire quanto suonino artificiose le parole e i gesti di circostanza degli altri. Tornando al tema del consigliare, ecco un'altra sua famosa battuta: i vecchi si compiacciono di dare buoni consigli per consolarsi di non poter dare più cattivi esempi. E invece la rubrica Memorandum del nostro direttore di Radio 24 del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, oggi è tutta dedicata a Rossella Orlandi, che è che guida l'Agenzia delle Entrate. Roberto Napoletano ha a lungo parlato con lei, a lungo l'ha ascoltata durante Telefisco, la grande iniziativa del Sole 24 Ore che c'è ogni anno appunto per dare i chiarimenti ai contribuenti, persone fisiche e aziende, sulle norme fiscali. E cita Roberto Napoletano anche il fatto che il New York Times abbia parlato di Rossella Orlandi e delle sue vittorie, soprattutto in tutte le questioni di elusioni fiscali. I casi più recenti sono quelli di Google e di Apple. In questo caso Rossella Orlandi è riuscita dove tantissimi altri paesi hanno fallito, cioè bloccare queste iniziative di turismo fiscale, così vengono anche chiamate, delle grandi aziende, in particolare purtroppo americane. E quindi Roberto Napoletano la elogia come un esempio di servitrice dello Stato e si auspica che resti al suo posto, perché sapete che nei mesi scorsi si è anche parlato di un contrasto tra lei e il governo stesso, e quindi anche di una possibilità che non resti al suo posto. Ecco, invece speriamo che Rossella Orlandi continui nella sua opera di, da una parte, riforma dell'Agenzia delle Entrate e dall'altra appunto di recupero di lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale. La copertina, il pezzo di copertina vero e proprio, però, è dedicato al rapporto tra la musica e il cervello. Il titolo è Musica per il nostro cervello e lo spunto è un libro che verrà pubblicato l'11 febbraio da Carocci, I neuroni magici, cervelli e musica, che è una conversazione tra Boulez, il compositore morto un mese fa, e il neuroscienziato Changeau sulla autonomia del linguaggio musicale da altre forme espressive. Invece un altro approfondimento molto interessante di Paolo Legrenzi, anche in questo caso è una lunga recensione di un libro che è uscito, Architetture dell'azzardo, che si occupa di come la nostra mente, appunto, di come noi, tramite la nostra mente, a volte anche il nostro cuore, ci avviciniamo al gioco, quindi i drogati delle lotterie, prigionieri dell'azzardo, questo è il titolo della lunga recensione. Furono due giocatori a elaborare la teoria della probabilità di Fermat e Pascal, ma ai loro tempi i giochi erano equi, quindi anche il tema di come sostanzialmente, lo si dice sempre, lo sostengono anche tutti quelli che cercano norme più severe sulla diffusione delle slot machine, ma anche di tanti altri giochi, oggi quasi sempre il banco vince e il banco spesso è lo Stato. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore, anche una della Domenica del Sole 24 Ore, anche un bellissimo articolo sulla casa editrice Liberi Liberi. Compie 30 anni la casa editrice maceratese di Aldo Canovari, eleganza tipografica al servizio del pensiero libertario. E quello, appunto, Aldo Canovari viene definito un editore, giustamente, un editore coraggioso. Velocemente la copertina della lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera. sera, affidata come ogni settimana a un artista, questa settimana è Susan Phillips. Vi segnalo dall'interno un interessante, come sempre, divertentissimo articolo di Alessandro Piperno, scrittore e docente di letteratura francese. Un bel romanzo è come un cheeseburger. Due o tre cose che ho capito della narrativa: i libri sono strumenti di piacere, se è vero che noi siamo ciò che amiamo, posso affermare di essere una busta della spesa stipata di volumi. Credo che questo intenda Nabokov. Per comprendere un brano devi sottoporlo al vaglio dei sensi prima che a quello dell'intelletto. A lui il brivido estetico procurava una scossa alle spalle, a me fa venire la colina. E poi invece la prima pagina, vi segnalo, della Domenica della Repubblica, dedicata alla grandissima famiglia dei Tolstoi. Sono più di 300 gli eredi del grandissimo scrittore russo. Di tutte le età, vivono sparpagliati nel mondo, però ogni due anni si ritrovano in Russia a casa del celeberrimo antenato. Nessuno di loro fa lo scrittore, ce n'è uno che fa il fotografo e appunto si diverte a fotografarli tutti. Vi segnalo poi invece dalla Radar, che è il supplemento culturale dell'Unità, un approfondimento sui 70 anni della Vespa, 70 anni di un culto collettivo, molto più che un semplice mezzo di locomozione. La motoretta della Piaggio è entrata nell'immaginario e sulle strade di mezzo mondo. E ultimissima segnalazione, la copertina di Alias del Manifesto, che è dedicata a Shakespeare. Sapete, nelle sale in questo momento c'è una nuova ennesima versione di Macbeth, ma la tesi del Manifesto è che a 400 anni dalla morte il bardo si conferma l'inventore dell'umano. La sua parola è un medium capace di violare quei confini tra il dentro e il fuori di sé da cui nacque il pubblico moderno. Forse ho ancora tempo per un'ultima segnalazione un po' curiosa, che è un supplemento del Corriere della Sera, Vissi d'alta moda, ed è dedicato a questa commistione che vedremo oggi in scena tra cultura musicale. Abbiamo parlato della musica, dell'effetto che la musica ha sul cervello, grazie alla copertina della Domenica del Sole 24 Ore. Oggi alla Scala si terrà, proprio sul palcoscenico della Scala, una sfilata di alta moda di Dolce Gabbana, alta moda femminile, e in questo speciale di 8 pagine si parla appunto di questa commistione e anche di come comunque il ruolo della non magari dell'alta moda, ma il ruolo importantissimo che hanno i costumi nelle opere. Quindi si ripercorre anche questo. Sapete che tra l'altro Dolce Gabbana, gli stilisti Dolce Gabbana sono da quest'anno diventati sponsor ufficiali, sono entrati nel consiglio di amministrazione della Scala come sponsor ufficiali, quindi sostengono il teatro milanese. Era l'ultima segnalazione per oggi, però come sempre, magari di domenica quando uno ha un pochino più di tempo, vi rinnovo l'invito ad approfondire soprattutto i supplementi culturali, che oggi sono ricchissimi, il nostro del Sole 24 Ore e non solo. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia e auguro ancora a tutti una serena domenica.